giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La base USAF di Aviano resta allo stato d'allerta dopo le minacce di sabotaggi russi. La prefettura ha confermato l'alert specifico. Mercoledì Lorena Venier, la madre di Alessandro, tornerà davanti alla procura di Udine per un nuovo interrogatorio, questa volta con il procuratore capo Milillo. Obiettivo quello di chiarire quanto fosse grave la situazione familiare a Gemona. Incidente all'alba a Precenicco, una moto esce di strada e si schianta contro un palo della luce, grave un ragazzo di 21 anni. È morta la cinquantenne che ieri sera aveva avuto un malore mentre nuotava a Barcola. Soccorsa da altri bagnanti è morta poco dopo il ricovero. In gravi condizioni un'anziana colta da malore mentre nuotava a Muggia davanti all'hotel Lido. Disagio a Lignano per blackout elettrici, svariati gli interventi di soccorso per ascensori e persone con disabilità rimaste bloccate ai piani. E disagi anche nelle valli del Natisone, dove tre comuni sono da mesi senza rete di telefonia fissa. Un problema per gli anziani, per le attività produttive e per la zona che si sta aprendo al turismo. A Rigolato questo pomeriggio Cavazzo e Cedarchis si sfidano nella finale di Coppa Carnia, competizione molto sentita dai tifosi e dai partecipanti. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Lara Zani e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Il giorno dopo l'alert alla base di Aviano per un'ipotetica attività di sabotaggio, siamo andati nella cittadina pedemontana a raccogliere commenti della popolazione. La prefettura ha confermato l'alert specifico, ma all'interno della struttura militare l'allerta resta invariata. All'esterno della base di Aviano e in paese non si nota nulla di invariato se non alcune pattuglie e il passaggio di un elicottero. Ieri la notizia riportata dal Corriere della Sera di una minaccia di sabotaggi di matrice russa con ipotetiche attività incendiarie e coinvolgimento di una donna che avrebbe avuto il compito di filmare il sito. La prefettura di Pordenone ha confermato l'esistenza di un alert specifico per il sito friulano emerso da attività di intelligence e già affrontato in sede di comitato provinciale, non aggiungendo però ulteriori conferme sui dettagli riportati dal quotidiano nazionale. Si tratta di un'attività preventiva, specificato la questura, con sorveglianza H24 e controlli rafforzati anche con le unità speciali antiterrorismo. Fonti interne alla base fanno sapere di non avere ricevuto allerte specifiche e che il livello di sicurezza resta invariato a Bravo Plus. In base lavorano circa 5.000 militari, altrettanti sono i loro familiari, circa tanti quanti sono i residenti. La popolazione locale non si dice preoccupata e confida nelle attività delle forze dell'ordine. Io sono fiduciosa del fatto che ci siano sempre controlli e ci sia sempre insomma questa certa sicurezza. A me non ha spaventato, ecco, meglio un controllo in più, un'allerta in più, magari anche per questioni di sicurezza generali, piuttosto che non sapere nulla, ecco. Uno tira sulle orecchie sempre, è sempre attento, non è che uno vive sonni tranquilli, perché la situazione non è tranquilla nel mondo, non solo qui ad Aviano. Chiaro, noi abbiamo una base e sappiamo che è una base che potrebbe essere operativa dall'oggi al domani, per cui siamo in allerta o comunque con le orecchie alzate sempre. Stamattina c'era un elicottero dei carabinieri che girava a bassa quota sopra il centro abitato facendo dei giri molto frequenti, credo che stiano controllando di più. Il lavoro delle forze dell'ordine locali, polizia e carabinieri è davvero eccellente, ci sentiamo davvero al sicuro a vivere e lavorare qui. Aviano, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora facciamo il punto sulle indagini sull'omicidio di Gemona, che presenta ancora molti lati oscuri. Lorena, la madre, subirà un nuovo interrogatorio mercoledì. Melina, ancora chiusa in se stessa, è troppo fragile per parlare anche ai suoi avvocati. Entrambe rischiano l'ergastolo. Mercoledì Lorena Venier, madre e assassina reo confessa di Alessandro Venier, tornerà davanti alla procura di Udine per un nuovo interrogatorio, questa volta con il procuratore capo Massimo Milillo. Tra gli obiettivi, chiarire quanto grave fosse la situazione familiare in quella casa a Gemona. Nelle prime dichiarazioni Lorena aveva raccontato di un clima di degrado e violenze. Era già stata sentita il 2 agosto dalla GIP Maria Rosa Persico nell'udienza di convalida del fermo, quando aveva aveva confessato di aver fatto tutto da sola, anche lo smembramento del corpo. La procuratrice aggiunta Claudia Danelon ha confermato che Alessandro è morto per arresto cardiocircolatorio, ma la causa precisa, strangolamento o altro, sarà chiarita dall'autopsia e dagli esami tossicologici attesi nelle prossime settimane. Ancora aperto anche il mistero sull'arma usata per smembrare il cadavere. Nei verbali compare un coltello molto affilato, comprato online. Sul piano giudiziario non ci sono alternative. Con la nuova riforma sugli omicidi in ambito domestico non sono ammessi riti abbreviati o riduzioni automatiche di pena. Lorena Veniere e Maylin Castro Consalvo rischiano dunque l'ergastolo pieno, con aggravanti come la premeditazione, il legame familiare e la presenza della figlia di 6 mesi. Maylin, detenuta a Venezia, ha chiesto una foto della bambina, che intanto il Tribunale per i minorenni di Trieste sta valutando di affidare ai nonni colombiani e ha chiesto al consolato colombiano di avere priorità assoluta sul caso. Il sindaco di Gemona ha annunciato sostegno concreto intanto per la famiglia in arrivo dall'estero. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Un motociclista di 21 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente che si è verificato poco dopo le 5 a Precenicco in via Lignano. Per cause in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo del mezzo, è finito contro un palo dell'illuminazione pubblica ed è stato sbalzato per una decina di metri. Egli trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Latisana, i sanitari e i carabinieri della locale stazione. Non ce l'ha fatta la cinquantenne che ieri sera aveva avuto un malore mentre nuotava davanti al primo topolino a Barcola. La donna di nazionalità ucraina era stata annotata riversa a testa in giù da alcuni bagnanti che avevano dato l'allarme. I soccorsi si sono protratti per oltre mezz'ora, ma le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. Trasportata d'urgenza a Catinara è deceduta poco dopo il ricovero. Un altro malore si è registrato a Muggia, nel tratto di mare davanti all'hotel Lido. Un'anziana di 75 anni stava nuotando quando si è sentita male. È stata subito soccorsa e rianimata, ora è ricoverata in gravi condizioni a Cattinara. Nello stesso luogo, l'8 agosto scorso, l'83enne Vilma Perossa era stata riportata a riva da 5 poliziotti che stavano prestando servizio per il corteo della CGIL a sostegno dei lavoratori della Tirso. L'anziana era spirata in ospedale poche ore dopo. Ancora una serata di tensioni a Muggia in occasione del carnevale estivo. Intorno alle 23 di ieri un gruppo di italiani ha infatti aggredito senza apparente motivo 2 giovani colombiani dopo averli rincorsi fino alla stazione delle Corriere. E l'immediato intervento degli agenti di polizia in servizio di ordine pubblico, in particolare del reparto mobile, ha contenuto la situazione ed evitato situazioni più gravi. Nessuna conseguenza di rilievo per i 2 giovani aggrediti, uno dei quali è stato condotto in ospedale per accertamenti. Si lavora per identificare i soggetti che hanno partecipato all'aggressione. Nel corso della serata sono poi stati sedati vari confronti piuttosto accesi, che però non sono degenerati in risse. Giornata da bollino rosso sulle autostrade della regione. Il controesodo è in corso, non si registrano per ora code ma traffico molto intenso con rallentamenti da Palmanova fino a Ugovizza e nei pressi dei Caselli verso le località di mare. Traffico regolare all'Isert ma bloccato sulla grande viabilità poco dopo il raccordo di Sistiana in direzione Venezia a causa di un incidente. Ritardi nei treni fino a 70 minuti, alcuni convogli cancellati. È quanto accaduto questa mattina alla stazione ferroviaria di Trieste, dove si sono verificati una serie di disagi sia per i treni in arrivo che per quelli in partenza. In particolare i problemi hanno interessato le tratte regionali. I disagi sarebbero stati causati, secondo quanto si apprende, da un problema tecnico verificatosi sulla linea tra Trieste e Monfalcone. Intorno alle 12 la situazione si è praticamente normalizzata, soltanto un treno regionale proveniente da Tarvisio Boscoverde, diretto a Trieste, ha accumulato un ritardo di 70 minuti. Un convoglio dell'austriaca OBB, diretto alla stazione centrale di Vienna, in partenza da Trieste alle 12.52, risulta cancellato. E andiamo a Lignano, dove ieri sera si sono registrati disagi a causa di guasti ad alcune cabine elettriche dell'Enel, con conseguente blackout in varie zone della cittadina. Numerosi sono stati gli interventi per ascensori bloccati e per persone con disabilità rimaste ferme ai piani. In alcune zone di Lignano Sabbiadoro la corrente elettrica, saltata tra le 22 e le 23, è tornata solo intorno alle 4 del mattino. Probabile causa del blackout, un sovraccarico della rete, guasti alle cabine dell'Enel, un paio di queste si sono incendiate. In diverse strutture, come al campeggio di Sabbiadoro, segnalata un po' di apprensione da parte di qualche turista. Qui tutto è tornato alla normalità verso le 6:30 del mattino. Qualche criticità poi risolta al Bell'Italia Village. Alcuni ospiti con disabilità erano in giro alla sera per vedere lo spettacolo dei droni. Al ritorno, chi alloggiava ai piani superiori è stato portato su a braccia. Gli altri sono stati sistemati in alcuni letti spostati al pian terreno. Una signora è rimasta bloccata in ascensore fra il terzo e il quarto piano. Il personale del villaggio è riuscito ad aprire la cabina e liberarla. Una ventina in tutto gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco. In mattinata sono arrivate alla Getura anche le squadre della Protezione Civile, attivate verso le 5 del mattino, e lì hanno coadiuvato il personale della Croce Rossa. Enrico Guerin, presidente di Confcommercio Federalberghi FVG, e Loris Salatin, presidente di Confcommercio Lignano, parlano di intollerabili interruzioni di servizio elettrico. Avevamo chiesto l'impegno a E-Distribuzione a migliorare le forniture, ma le cose sono peggiorate e prioritario, scrivono, mettere mano alle infrastrutture perché Lignano non può presentarsi al buio nel giorno più importante dell'anno. Non tutti hanno gradito lo spettacolo di Ferragosto di ieri sera, con le coreografie di droni sul lungomare, da un'idea dell'amministrazione con supporto logistico di LisaGest. Troppo breve, 13 minuti, durata legata all'autonomia dei droni, limitata alla visibilità, solo chi era di fronte lo vedeva bene, e qualche problema audio. Abbiamo cercato di proporre una novità, sicuramente l'idea è da migliorare, indicano gli organizzatori. Intanto fervono i preparativi per lo spettacolo con i fuochi d'artificio di Pineta, questa sera alle 23:30, il cosiddetto incendio del mare che dal 95 illumina i cieli della località balneare. Oltre 500 kg di artifici pirotecnici verranno sparati da una chiatta galleggiante e dal pontile della pagoda. Lignano Sabbiadoro, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Tre comuni delle valli del Natisone sono da mesi senza rete di telefonia fissa, importante soprattutto per gli anziani, in un'area dove anche la rete mobile prende solo a tratti. Un problema per le valli che si stanno aprendo al turismo oltre che per le attività produttive. Polava è una frazione del comune di Savogna, nelle valli del Natisone, a 1 chilometro dal confine con la Slovenia. Meno di 10 gli abitanti, che da più di un mese sono isolati dal mondo. Il telefono mobile non prende e la linea fissa ha problemi. C'è come il vento di Trieste dentro il telefono, le persone che ci telefonano dicono a un certo punto, guarda, non sento niente. Una difficoltà diffusa nel comune di Savogna e in quelli di Drenchia e Grimacco. Saremo in 100 persone e siamo senza servizi, però la bolletta arriva da pagare. L'altro giorno è arrivata la bolletta, 46 euro, e sono 3 mesi senza telefono. Gli impianti sono vecchi, c'è vegetazione lungo le linee e i temporali causano ogni volta disagi. La sindaca di Savogna ha ottenuto dai gestori la promessa che i cavi saranno sostituiti entro fine settembre. Tatiana Bragalini, sindaca di Savogna. Il servizio della linea fissa per gli anziani è indispensabile, deve essere considerato proprio un servizio elementare di base imprescindibile, anche perché se hanno bisogno di attivare un telesoccorso o hanno magari un telesoccorso attivato, senza linea fissa si ritrovano completamente isolati. Anche la linea mobile e dunque internet nell'area prende solo a tratti, tanto che al bar di Savogna si ricorre ancora alla vecchia cabina telefonica. Viene tanta gente da fuori soprattutto, che logicamente non hanno team, hanno Vodafone o altro, e qua non prende e si trovano un po' impacciati. La regione ha affidato a Insiel la realizzazione dei tralicci per la rete mobile in diverse aree del territorio, tra cui quella di Savogna. Lo ricorda l'assessore al patrimonio Sebastiano Callari, insieme al consigliere regionale Roberto Novelli. Alla prefettura di Udine è attivo anche un tavolo tecnico permanente con i comuni e gli operatori telefonici. Siamo magari in pochi nei nostri comuni, però abbiamo diritto ad avere i servizi basici che hanno tutti gli altri cittadini. Savogna, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 32 gradi e 5 decimi, il mare poco mosso con una temperatura di 25 gradi, a Gorizia Udine 33, a Pordenone 30, a Tolmezzo 28, a Tarvisio e Piancavallo 25 gradi, a Forni di Sopra 27, a Sappada 21, sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari 19 gradi, a Grado 29 gradi e 5 decimi, la temperatura del mare è di 26 26 gradi, a Lignano 30 gradi, qui la temperatura del mare è di 27 gradi e 5 decimi. E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi. Variabilità sui monti, probabile qualche rovescio o temporale di calore che poi potrà interessare qualche località di pianura anche con qualche raffica di vento. In pianura farà ancora caldo, sulla costa soffierà borino. Il comune di Pordenone ha annunciato una riqualificazione dell'area esterna riguardante la scuola dell'infanzia Ada Negri a Villanova di Pordenone. Il programma delle opere di manutenzione straordinaria relative alla struttura in oggetto, ha dichiarato la vice sindaca Mara Piccin con delega alle manutenzioni, prevede una nuova pavimentazione in gomma colata antitrauma che renderà le due aree gioco e il percorso di collegamento più sicuro per i bambini. All'interno dello stesso contesto è prevista la sostituzione della porzione interna rabattuta con la posa di una nuova pavimentazione in erba sintetica idonea per il gioco dei bimbi. L'investimento complessivo ammonta quasi 89.000 euro e i lavori, meteo permettendo, si concluderanno prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Ora parliamo di un nuovo gioco da tavolo didattico-educativo per sensibilizzare sul problema della plastica in mare, sviluppato dal biologo marino e scrittore Diego Manna. I rifiuti si accumulano a ogni mossa, bottiglie di plastica, reti dei pescatori, mozziconi di sigarette. Finiscono in mare, nei fiumi o sulla spiaggia. Spetta ai giocatori, che vestono i panni di associazioni ambientaliste, lottare per pulire gli ecosistemi e soprattutto per proteggere le specie che l'inquinamento mette a rischio. Delfini, tonni, alghe, cormorani, solo per citarne alcuni. È il gioco Plastic Fighters, realizzato dall'associazione Delta, Delfini e Tartarughe nel Golfo di Trieste, con il supporto del programma internazionale Beyond Plastic Med, che mira a sensibilizzare le persone sul problema della plastica in mare e del degrado degli ecosistemi marini, trasmettendo la sensazione di urgenza e mostrando nella pratica i danni dell'invasione della plastica. Pensato per 2-4 giocatori dagli 8 anni in su, sarà diffuso innanzitutto nelle scuole. È frutto di un lungo lavoro scientifico dell'Associazione Delta, che ha ricostruito le specie presenti e in pericolo nel Golfo di Trieste. In Plastic Fighters la vittoria è solo collaborativa. Si vince tutti insieme quando si riescono a proteggere gli ecosistemi attraverso azioni di pulizia, ma anche strategie come costruire un centro di riciclaggio o installare distributori di borracce. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport, calcio, debutto difficile in Coppa Italia di Serie C per la Triestina, impegnata in trasferta allo stadio Dal Molin contro l'Arzignano Valchiampo. Calcio d'inizio alle 18. Il tecnico marino ha potuto lavorare 10 giorni con la squadra, mentre fuori dal campo non si è ancora sbloccata la situazione della società. Si gioca oggi la finale della Coppa Carnia 2025, l'appuntamento è alle 17.30 al campo sportivo Don Giovanni Franzil di Rigolato. In campo Cavazzo e Cedarchis. Maurizio Plazzotta, delegato della Lega Nazionale Dilettanti per Tolmezzo, presenta la sfida e spiega perché il campionato carnico è calcio, ma anche molto di più. Sono mille i motivi, secondo me, per cui è importante il campionato carnico, che appunto aveva radici a più di 70 anni fa, perché prima di essere sport, prima di essere calcio, è sociale, è aggregazione, è occasione di ritrovo e di crescita per i nostri giovani, è un momento di svago per gli anziani, è un confronto anche generazionale. È capitato più volte che una stessa squadra si trovassero assieme padre e figlio, oppure addirittura in alcune occasioni si trovava la domenica a giocare il padre contro il figlio. È un sano campanilismo che però è anche un momento di incontro tra le varie comunità dei nostri piccoli paesi. E le società sono veramente un gruppo di amici, nel senso che spesso si affiancano e si sostituiscono anche alle pro loco nell'organizzare anche iniziative di altro tipo per le comunità. Negli anni scorsi ha festeggiato anche un importante compleanno. Esatto, 2 anni fa ci siamo ritrovati a Fornavoltri appunto a festeggiare il 70° del campionato carnico. In quell'occasione è venuto fino a Fornavoltri il presidente nazionale Abete ed è rimasto favorevolmente impressionato dalla nostra realtà, dalla nostra viva città e dalla nostra genuinità, oltre dire. Oggi invece si gioca la finale di Coppa Carnia, Cavazzo Cedarchis. Che partita ci aspettiamo? La partita è indecifrabile perché sono due squadre entrambe attrezzate. sono due squadre di grandissima tradizione perché sono le più titolate del nostro campionato, quindi fare pronostici è assolutamente impossibile. L'augurio è che sia una bella giornata di sport e di festa per tutti. E con la Coppa Carnia è tutto per questa edizione. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, per la parte tecnica in regia Caterina Cabrelli e Federico Comar. Da parte di Lara Zani e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione. Un buon pomeriggio e il prossimo giornale radio in onda alle 14.30. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.